è più semplice dire che c'è meno diffidenza nei confronti dei negozi etnici o quello sì. Vedo che tutti vanno dal macellaio islamico a prendere l'agnello, senza nessuna. Perché è quello del quartiere, c'è la tua vicina di casa che diventa proprio una questione di comunità, quello sì. Il grosso cambiamento l'abbiamo notato forse all'85-90, che abbiamo visto i primi stranieri della Turchia, del Senegal, e adesso veramente sono varie, ecco, le etnie che vengono da vari posti. Ultimamente abbiamo visto solo parecchi del Pakistan, che prima del Pakistan, pochi anni fa, non l'avevamo, ecco, adesso invece vediamo che. E molti abitano nella zona di Via Grapsi, oppure nell'area nord, in quel mercato lì. Una storia che mi è rimasta molto dentro, che mi ha raccontato un ragazzo di origini pakistane, ma cresciuto a Modena, che per motivi familiari è stato riportato dalla famiglia in Pakistan, ma lui aveva i suoi amici storici alla Crocetta e al Parco 22 Aprile ed è tornato da solo a piedi, camminando dal Pakistan a Modena. Ci ha messo vari anni, credo 6-7 anni. Quando è tornato a Modena ha rintracciato un suo vecchio compagno di scuola ed è tornato a giocare con lui al Parco 22 Aprile, sempre a calcio o quella pallavolo che giocava, ed è una storia che mi ha raccontato questo ragazzo seduto su una panchina del parco, e mi è sicuramente rimasta dentro, insomma, anche perché è un quartiere a cui tanti ragazzi sono molto legati, affezionati.